Radio Popolare presenta La Caccia, caccia l'ideologico quotidiano a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera, qui riuniti, l'indice prevede di parlare di formale e di sostanziale, di autorità, di cani sciolti e di gambe illusorie.